Il mio compito è quello di cercare di dare un senso alla relazione negoziale, ma dal punto di vista proprio della necessità strutturale, no? Cioè è necessaria la contrattazione integrativa ed è necessario questo legame tra le due funzioni, quella datoriale rappresentativa dell'amministrazione, cioè dirigente, e l'RSU. È un legame inevitabile non solo perché c'è una legge di mezzo, cioè perché è un rapporto giuridico, ma per un sacco di motivi che conoscete meglio di me, perché la scuola è un'organizzazione diversa rispetto a tutta la pubblica amministrazione. È una cosa, devo dirle, il legislatore questo l'ha compreso, perché nella scuola si contrattano più materie rispetto alle altre amministrazioni pubbliche a livello di contrattazione integrativa. C'è ancora, insomma, la presenza della contrattazione integrativa. In altre amministrazioni veramente non esiste, c'è solo la parte della relazione che riguarda la semplice informativa, vi assicuro che non si contratta nemmeno alla presidenza, perché il nucleo operativo, cioè gli operai proprio della catena di montaggio, non sono semplici impiegati. C'è questo, bisogna sempre tenerlo presente, perché quando si va in contrattazione, l'oggetto della contrattazione dal punto di vista dei profili va tenuto presente in modo molto chiaro. Allora, partiamo dal fatto che noi abbiamo un nucleo operativo nella scuola, cioè i docenti, che non hanno un potere contrattuale autonomo, cioè non so come dire, non c'è una categoria che può dire di avere un certo profilo, uno stato giuridico con diritti e doveri da rivendicare. Non c'è. Ma quello che fa un... Senti, Rofiorellina, che ti sa, che ti interessa? Ma quello, ma non mi ha sentito, se no avrebbe già reagito subito. Ma quello che fanno i docenti è, come possiamo dire, diffuso, spalmato tra norme più o meno generali, il contratto, ma non c'è un luogo di presidio della funzione docente. Cioè, noi stiamo lavorando su tutti i campi normativi e anche quello contrattuale, regolando a vari livelli la funzione del nucleo operativo che non è declinata. Diciamola tutta, il fatto che non sia stata declinata dalla Costituzione in poi ci vuole un esame di coscienza da parte di tutti, perché lasciare una classe docente così numerosa e importante con l'assenza di uno stato giuridico vuol dire che dietro qualche ragionamento l'hanno fatto a livello politico e di poteri forti, perché se no non si spiega l'unico paese al mondo dove abbiamo una classe docente che è in un limbo. Pure la 107 ha dato l'ultima mazzata, ha cassato il decreto legislativo che prevedeva lo stato giuridico e lo sviluppo professionale dei docenti. Quindi probabilmente sono considerati tanto i docenti da essere esclusi da un riempimento normativo così importante e basilare. Quindi secondo me questa è una roba che ci trascineremo sempre, e che ovviamente nella contrattazione integrativa di istituto ormai ha poco rilievo, perché siamo nella parte finale, no? Della relazione contrattuale, quindi non è che si può sanare una situazione diversa, però bisogna sempre tenerlo presente. Perché il dirigente scolastico, come tutti i dirigenti, ha bisogno di lavorare sul consenso, nel senso che l'unica forma in tutta l'amministrazione pubblica, ma anche nelle organizzazioni private, per avere la certezza del raggiungimento degli obiettivi è arrivare all'attività e all'erogazione dei servizi attraverso la partecipazione e la condivisione dei lavoratori. Cioè, è quasi ridondante, insomma, è quasi tautologico, no? Non posso io sperare di raggiungere un obiettivo se non è condiviso da chi lo deve realizzare. Insomma, mi pare una cosa molto... Questo che cosa vuol dire? Che il dirigente deve utilizzare tutte le sue prerogative, quindi mi sto mettendo alla parte dei dirigenti, per impostare e condurre il processo di contrattazione secondo canoni, e ho richiamato i due canoni basilari. Uno è quello che sta a fondamento dell'azione amministrativa di tutto il mondo pubblico, cioè la trasparenza, ma la trasparenza intesa nel senso più ampio delle decisioni innanzitutto. Quando noi impianteremo la relazione sindacale su questi presupposti, è ovvio che poi la relazione sindacale si snoda sulla base proprio dell'esercizio del canone di correttezza. E quando dico correttezza da codice civile, cioè la correttezza delle parti contrattuali, quella che mi può portare anche davanti a un giudice del lavoro se ritengo che non sia stata tenuta in considerazione. Ma capite bene che se io parlo di mancanza di trasparenza e correttezza solo nella fase conflittuale, vuol dire che non c'è stato nessun lavoro dietro, no? Da parte di nessuno, di entrambe le parti, perché quando si fa un contratto si è in due, non è uno solo. Cioè ci sono i contraenti ed entrambi, dico una cosa forte, devono soggiacere ai criteri della correttezza e buona fede, però paga solo uno oggi, paga solo il dirigente, scusate, lo devo dire. Ed è una roba che eticamente non mi sta bene, contrattualmente forse è pure giusto, no? Perché c'è la parte datoriale, la parte dei lavoratori. Però guardate com'è, la cosa è un po' strana, perché correttezza e buona fede sono parametri che funzionano quando entrambi hanno, le parti sopportano lo stesso peso di responsabilità, e noi sta cosa non ce l'abbiamo, e quindi bisogna riequilibrare la mancanza normativa con la correttezza tra le relazioni. Io credo molto nella regolazione dei rapporti fuori, nella meta-regolazione, cioè non nella regolazione normativa delle norme, ma della regolazione pattizia, chiamatela come, ma pattizia nel senso meta-normativa, non so come dire, non il contratto da codice civile, l'accordo, ecco, avete parlato di intese, quindi. Esatto, quel livello lì, perché? Perché è il livello che dovrebbe poter impegnare le parti su comportamenti eticamente sostenibili. No? Se c'è una norma, io soggiaccio alla norma. Se faccio un accordo, devo soggiacere innanzitutto alla mia posizione, a quello che io ho deciso. Quindi, insomma, ci sono delle cose che non mi tornano. Ci sono dei problemi limitativi oggi alla contrattazione integrativa, li avrete forse visti, cioè siamo in fase recessiva. Dalla Brunetti in poi si sta tentando a riportare tutto al centro. Ci credo proprio alla speranza venuta fuori dalla scrittura dell'intesa. Cioè che riprenda vigore la contrattazione integrativa, quella che ci credo pochissimo io, perché le norme vanno in tutt'altro senso. La riscrittura del 165 sta andando verso la riappropriazione di materie sempre più consistenti, quindi diciamo che c'è poca materia oggi da contrattare e ce ne sarà sempre di meno. Il fattore limitativo è anche la governance interna della scuola, del sistema scolastico, ma della scuola in particolare. In che senso? Prima ho parlato del vuoto normativo relativo al nucleo operativo, cioè ai docenti, no? Abbiamo sti fantasmi oggetto di contrattazione che poi non hanno una regolazione normativa. Ma pensate al fatto che noi stiamo oggi affrontando la riforma ancora della 107 senza aver affrontato le riforme preliminari, quella degli organi collegiali e del profilo dirigenziale. Sia gli organi collegiali che il dirigente oggi sono inadeguati all'attuazione per l'attuazione della riforma, e quando si va a negoziare una partita importante queste cose vengono fuori, perché gli equilibri che ci sono dietro impediscono la chiarezza delle posizioni e delle responsabilità. C'è una specie di cortina fumogena intorno a tutto. E io sono d'accordo che poi la contrattazione diventi alla fine l'unico momento di sintesi e anche di sorpasso rispetto a dei limiti, diciamola così, no? Perché? Perché non c'è spazio oggi proprio per questa nebulosità delle posizioni. Sto dirigente oggi ha un profilo, quello dell'articolo 25, assolutamente inadeguato a fare il datore di lavoro. Perché quando si va in contrattazione va in qualità di datore di lavoro, rappresentante dell'amministrazione, ma alle armi spuntate, non per colpire, ma per negoziare. Perché scusate, un dirigente che va a negoziare quegli oggetti che voi avrete già analizzato, no? E che piattaforma contrattuale porta per negoziare? E da dove nasce questa piattaforma contrattuale? Adesso cerco di arrivarci, ma poi lo riprendo questo ragionamento. La natura ibrida degli insegnanti, che appunto non possiamo considerarli solo impiegati, avranno ancora un margine di professionalità, no? Queste persone sono per una parte dipendenti pubblici con una serie di adempimenti, e quelli sì che vengono fuori dal contratto e dalle norme generali, ma ancora ce l'hanno una parvenza di libertà di insegnamento, no? Anche se l'abbiamo data in pasto ai comitati per essere declinata, perché così è di fatto, però una libertà ancora c'è scritta da qualche parte. E poi appunto le competenze dirigenziali che sono appese a declaratorie di poteri della 107 che non trovano assolutamente riscontro nel profilo. perché tutto quello che dice la 107 non è riscontrabile nel profilo dirigenziale, e la 107 non lo ha modificato, come non lo ha modificato nemmeno la riforma Brunetta. Perché? Perché devo dire una cosa pesante, ma Brunetta me lo sto rivalutando, perché alla fine ha capito che con la sua riforma non avrebbe dovuto e potuto cambiare la scuola, e non l'ha fatto, ha lasciato gli equilibri decisionali interni così come erano. La 107 invece ha tentato di cambiarli, ma non funziona, perché o c'è un sistema abrogativo o modificativo delle norme, oppure rimane in vigore la norma esistente. Il profilo del dirigente è quello dell'articolo 25. Quindi in tutte le materie, non oggetto di contrattazione, ma di attività dirigenziale, il dirigente deve fare un doppio lavoro. Deve applicare le norme attuali della 107 con un percorso rispettoso delle norme presupposte, quindi delle proprie prerogative. Prima qualcuno ha accennato al fatto che non vengono individuate le funzioni intermedie, chiamiamolo così, le funzioni strumentali. Addirittura le strumentali erano state individuate direttamente dal dirigente. Nell'ambito del 10%. Ma scusate, vedete, allora il collegio è disciplinato nella sua attività dall'articolo 7, no, del testo unico. L'articolo 7 non è stato modificato, forse sarà riscritto in contemporanea alla riscrittura del testo unico stesso, però l'articolo 7 prevede ancora che il collegio deliberi in materia didattica e di funzionamento della didattica, e questo vuol dire una cosa sola: che tutta l'organizzazione afferente alla didattica deve passare dal collegio. Diverso è il fatto che il dirigente si possa scegliere il 10%, perché quel 10% nasce già viziato da un presupposto, che è un 10% per sostenere il supporto dirigenziale dal punto di vista organizzativo, e lì ci sta con interpretazione estensiva di tipo gestionale, ma anche didattico. Ma scusate, lo strumento per individuare uno staff e qualsiasi supporto a una funzione dirigenziale è la delega. Come fa il dirigente a delegare un potere che non ha, se non l'hanno cassato l'articolo 33? No? Come fa a individuare le persone per il supporto didattico? Con quale strumento giuridico? L'unico è la delega, e non può delegare un potere che non ha. Quindi i dirigenti l'hanno già fatto, spero, un giro traverso, no? Cioè hanno già individuato queste persone, ma se le fanno legittimare dal collegio, oppure chiedono al collegio di fare una proposta. Poi quindi noi formalmente applichiamo la norma, il dirigente si sceglie il 10% con una determina organizzativa dirigenziale, ma la strada per percorrere per arrivare all'obiettivo è rispettosa delle competenze ancora vigenti. Non può essere, insomma, né rispetto alle funzioni strumentali, ma anche rispetto agli altri. Non solo funzioni strumentali, lì c'è una norma contrattuale, ma rispetto proprio a tutte le funzioni intermedie che riguardano la didattica. Il dirigente può delegare solo il potere che ha a disposizione, quindi solo la funzione gestionale e nient'altro. Allora vado avanti. Ho riportato questo articolo perché secondo me bisogna sempre tenerlo presente, in particolare quando si parla di contrattazione integrativa di istituto, cioè risalgo al momento originario, della Ringa, che allora era il presidente dell'ARAN, quando venne introdotta la formula dell'RSU, fece presente come questa formula avrebbe avvantaggiato la dirigenza nei processi decisionali, perché avrebbe spianato la strada verso l'innovazione organizzativa e gestionale. Non solo, ma l'articolo 3 del contratto scuola mi pone gli obiettivi primari della contrattazione proprio come veramente un contemperamento di interesse pubblico al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi con l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale. Non solo, ma l'articolo 4 parla di contrattazione collettiva integrativa finalizzata ad incrementare la qualità del servizio come obiettivo, sostenendo i processi innovatori in atto mediante la valorizzazione. Questa gerarchia di interessi non si può dimenticare, non solo perché se io tengo presente questo principio, tutta l'attività di programmazione della scuola, sin da quando si fa stop-off e tutti gli atti di programmazione, va sempre indirizzata verso il perseguimento dell'interesse pubblico. Cioè deve finire il sistema dell'aggiustamento sulle persone, degli obiettivi, sia a livello di programmazione didattica sia del resto. Le persone sono strumentali al raggiungimento dell'obiettivo e ovviamente bisogna valorizzarle e riconoscerle per raggiungere quell'obiettivo. Ci mancherebbe, ma anche perché quando si determina l'obiettivo non si determina oltre le persone, con le persone sotto mano. E questo è il passaggio da fare, non creare obiettivi indipendentemente dai soggetti che ci lavorano dentro, ma con i soggetti che lavorano dentro, per coinvolgerli sulla visione dell'obiettivo prioritario, che è l'interesse pubblico specifico della scuola in particolare. Ogni scuola se lo definisce, no? Non dimentichiamo che la scuola come missione l'attività educativa e didattica non ha l'organizzazione di se stessa, è tutto strumentale. Guardate quando il legislatore del 99 ha scritto il 275 e aveva parlato di partecipazione all'elaborazione del POF, aveva detto una cosa di altissimo livello che non è stata assolutamente tenuta in considerazione. Quello è il momento della partecipazione iniziale. Se io faccio partecipare l'organizzazione tutta intera, ognuno per la propria visione, agli atti di programmazione primaria, è logico che poi la contrattazione, che è l'ultima fase a sostegno di questa programmazione, mi viene naturalmente, no, e facilmente, non mettendo in contrapposizione le parti, ma rendendo visibile, sancendo la partecipazione e la condivisione. Ma è un lavoro molto pesante da fare. C'è poco tempo, lo capisco, nelle scuole c'è molta ansia per i problemi contingenti, no? Però noi dobbiamo fare la parte più bella. Questo è soltanto il risultato di quello che è intervenuto con la Brunetta. Sapete bene quali sono le materie oggi che secondo la Brunetta e purtroppo pure le conferme successive sono oggetto di contrattazione, ma non mi fermo qui. Mi fermo al fatto, vado qui, sul che cosa si contratta nella scuola, no? Allora, sul costo di contratto c'è stata la storia infinita, prima il contenzioso, poi più o meno le situazioni si sono rasserenate, però quando si parla di criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti, là ci siamo perché è una questione solo tecnica, no? Che si può mettere giù con molta facilità, e anche sulla sicurezza del lavoro. Il problema sono i criteri per la ripartizione del fondo e l'attribuzione dei compensi accessori. Se io parlo di una cosa, di una materia del genere, vuol dire che dietro ho già tutta un'attività di programmazione molto, molto già consistente, e questa attività di contrattazione, di programmazione deve essere trasparente a tal punto che secondo me le RSU alla fine dovrebbero essere la cartina di tornasole di un sistema che è già integrato, che non si trova lì al tavolo contrattuale per vedere come dividere, cosa fare. C'è già un livello di partecipazione alta. Vi ho portato solo ad integrazione di questa materia di contrattazione una cosa che è venuta fuori 3 giorni fa, una sentenza del giudice di Cosenza sulla non obbligatorietà della funzione di coordinatore del consiglio di classe e sul riconoscimento del fatto che la delega eventuale al coordinatore deve essere supportata dalla contrattazione sulle risorse, eccetera. Vedete, questo è un caso in cui, cioè, io sono rimasta molto colpita dal fatto che c'è stato un conflitto fortissimo in una scuola per un fatto assolutamente idiota, scusatemi, perché un dirigente che arriva a dare una delega senza partire dal rapporto di fiducia col delegato, ma nominandolo da autorità, vuol dire già che sta aprendo la strada al conflitto e al contenzioso. È la stessa cosa, insomma, che può accadere, no, nella stessa fase della contrattazione integrativa, cioè tutta la parte che riguarda le relazioni precontrattuali, e quasi richiamandomi al codice civile, no, sulla responsabilità precontrattuale, dovrebbero essere improntate su sistemi di relazioni, di accordi, non lo so, di protocolli, ecco, chiamiamolo di protocolli. Protocolli formalizzati sulle modalità d'azione di entrambe le parti. Perché secondo me è l'unico momento educativo che ci può essere per crescere in questa possibilità. Allora, vediamo un attimo da dove partiamo. Partiamo da qui. Possiamo un attimo rinviare il ma ve ce l'avete, ve le do. È la 1830, guarda, se volete segnare la sentenza. Sì. Però per i materiali e la registrazione integrale degli interventi, sì, li troverete sull'area del sito predisposta per l'RSU e per i dirigenti scolastici. Norberto vi manderà l'accredito a chi non lo ha. Non ho concluso una cosa, sto dirigente addirittura aveva anche fatto contestazione di addebito e erogato la sanzione, per questo la docente è andata davanti al giudice. Quindi provate a pensare, no, quanto si può essere ciechi e andare a percorrere una strada senza uscita, mi pare una cosa veramente pazzesca. Invece a questo ci tengo molto, perché quello proprio spiega proprio quello che intendo io per responsabilità precontrattuale delle parti, no? Cioè come arrivo io alla piattaforma contrattuale del dirigente. Partiamo dal fatto, ripeto, che la scuola persegue l'interesse pubblico primario, che è quello di missione, cioè il percorso di educazione, insomma è quello che è. C'è tutta l'attività di programmazione delle attività didattiche, di organizzazione della didattica e anche non della didattica, non l'ho messo, di tutta l'organizzazione della scuola. E quindi si parte da questo PTOF per poter costruire i due grandi strumenti, no? Il piano delle attività del personale docente. E siccome, appunto, a proposito di questa cosa, scusate, voglio richiamare un concetto che ho già esplicitato prima, il piano delle attività è deliberato dal collegio. Questo in nome proprio della competenza prevista dal testo unico nell'articolo 7. E il piano dell'attività è un fenomeno organizzativo, non solo, ma non è solo il piano dell'attività che attiene alle 40 più 40, il piano dell'attività secondo me deve essere anche accompagnato dalle altre delibere organizzative del collegio rispetto alla composizione, che ne so, dei dipartimenti, piuttosto di commissioni, di gruppi e cose varie. Quindi sto dirigente si dovrebbe fare una specie di prospetto, no, del modello organizzativo da portare in contrattazione. Questo modello organizzativo, ovviamente, come parte datoriale, non lo porta in discussione, ma lo porta come base contrattuale sulla quale negoziare le risorse, ovviamente, altrimenti andiamo a far entrare tutto nell'organizzazione del lavoro. Come arriva a costruire il piano delle attività del personale docente? Arriva a seguito dell'attività del direttore dei servizi, no? Che lo propone, ma del direttore dei servizi alle spalle ha le direttive dirigenziali, ci sono le assemblee del personale ATA, cioè dovrebbe essere uno strumento che già ha attraversato momenti di partecipazione con il personale. E poi appunto l'azione di comunicazione interna del direttore col personale ATA, e la predisposizione stessa da parte del direttore, sono tutti fenomeni partecipativi. Per quanto riguarda quello invece dei docenti, ripeto, è una testimonianza del fatto che il collegio dei docenti mantiene ancora le sue competenze. Questa piattaforma contrattuale, quindi la A più la B e gli altri punti previsti dal contratto collettivo, vanno portati in contrattazione. La cosa da tenere presente è su questi elementi ritengo che le RSU debbano proprio esserne a conoscenza, perché conoscere la natura giuridica e quindi la forza dei documenti sui quali si discute è importantissimo. Dal punto di vista giuridico, i due piani che costituiscono la piattaforma dirigenziale, il piano delle attività del personale docente e del personale ATA, sono atti datoriali, da datori di lavoro, no? La procedura di adozione dei piani, nonostante l'esclusività della competenza dirigenziale, non ha subito cambiamenti, per questo ho riportato il collegio e il direttore dei servizi come soggetti che partecipano. E già questa cosa dovrebbe, come devo dire, ammorbidire la rigidità dell'atto del datore di lavoro, no? Cioè, è vero che è un atto del datore di lavoro, ma è un atto al quale ci si arriva già per legge, direi quasi, per norma, attraverso la partecipazione. Non è che il dirigente si sogna la notte il piano da portare nella base contrattuale, parlo dal punto di vista teorico, ovviamente. Sì, perché poi la realtà è un po' diversa, lo so, però io parlo sul come dovrebbe essere. Per cui sto dirigente arriva lì già con teoricamente è un provvedimento di gestione, il piano dell'attività del personale docente, come dicevo, praticamente rimane un atto deliberativo del collegio, vabbè, questo lo sapete, ma l'ho messo per ricostruire tutto. Su quello del personale ATA è un atto datoriale ovviamente più incisivo, perché qui c'è il dirigente che fa suo questo atto, lì lo propone, qui lo fa proprio suo, no? Però insomma vado veloce. A questo punto vediamo gli altri oggetti della contrattazione che entrano nella ripartizione delle risorse. Innanzitutto questa storia della contrattabilità del bonus, che grazie a Dio mi pare che sia chiarito ormai, no? Ancora no? Cioè che va contrattato? Non è ancora chiaro. Vabbè, in due parole. In due parole, allora, ci sono due articoli, il 40 e il 45 del testo unico sul pubblico impiego. Il 45 è quello che dice che tutti i compensi accessori vanno contrattati. Ma allora la parte avversa cosa dice? Sì, dice, ma c'è l'articolo 40 che dice che non vanno contrattati quelli che riguardano la premialità. Non è così, ve l'ho sottolineato e lo leggiamo. L'articolo 40 dice: la contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali. Sono in particolare escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici. Leggo tutte quelle che c'è, poi nelle materie, guardate, vado all'ultimo capoverso. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corrispondenza del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge. Ma dice la valutazione non va contrattata, non i compensi, non c'entra niente, sono i criteri valutativi che non vanno contrattati. È chiaro? Ma i compensi sì, e compensi accessori, ci sono due articoli che vanno tenuti presenti, il 40 e il 45. Il 45 generalizza l'oggetto, i compensi accessori. Il 40 dice che vanno contrattati nei limiti stabiliti dalla legge, e allora hanno detto, ma è il dirigente che deve... Ma certo, ma non c'entra nulla, si parla di valutazione delle prestazioni nelle materie relative alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione, quindi i criteri in effetti non vanno contrattati. Allora vi ricostruisco la parte teorica rispetto a questo. L'articolo 5, perché qui scusate non fate chiasso, come no, guardate, lo leggiamo bene. Per andare in fretta ho saltato un pezzo. Sono in particolare escluse dalla contrattazione collettiva, c'è scritto, le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5,2, 16 e 17 del 165. L'articolo 5 è quello che parla del potere organizzatorio del dirigente, organizzativo, cioè il potere di gestire in modo esclusivo le risorse umane e organizzare gli uffici, quello è. Infatti poi, io dico, l'articolo 5 che definisce i poteri di organizzazione dirigenziale è accompagnato nello stesso articolo precedente 40 dagli articoli 16 e 17 che sono quelli che riguardano la dirigenza pubblica in generale. L'articolo 25 che riguarda la dirigenza scolastica va interpretato in coerenza con i principi generali. La tipicità della scuola ha portato ad una identificazione del profilo dirigenziale parzialmente dissonante con questi principi, perché il potere organizzativo della didattica rimane sempre al collegio. Non a caso il piano delle attività viene deliberato dal collegio. Quindi è tutto un sistema per riconoscere che anche quando si interpretano le norme fondamentali del 165, la specificità della scuola deve essere sempre tenuta in considerazione. È vero appunto che la 107 nel qualificare il bonus non fissa i limiti della contrattazione, però la chiama il legislatore stesso compenso accessorio, hanno sbagliato loro. Se non avessero voluto considerarlo compenso accessorio, ma premialità, che è una roba diversa, nel 150 e nel 165 avrebbero dovuto farlo. Perché in realtà c'è una confusione, certo, terminologica. Non è la stessa cosa il compenso accessorio. Anche perché tutta la teoria della Brunetta... Come? Nessuno l'ha contrattato, nessuno vuole contrattare. Hanno fatto tutti una curva, una curva materiale. Ma no, non è però per nessuno. I criteri. Guardate, allora vi dico come avrebbero dovuto fare, secondo me. Allora, non entro nel merito dell'assurdità del meccanismo valutativo, lo prendo così come scritto. Il comitato deve declinare i criteri e il dirigente deve attribuire il bonus. Perfetto. Il quantum però da chi viene deciso? Direttamente dal dirigente o addirittura ci mettiamo il comitato? Assolutamente. Il comitato deve solo declinare quei criteri previsti dalla norma, per cui si presupporrebbe che dovrebbe essere il dirigente. Ma no, perché questo? Perché appunto c'è l'addizione della stessa norma che crea confusione, lo chiama compenso accessorio. Allora, io dico, se questo comitato, che già dovrebbe farlo, vabbè, declina i criteri, sulla base dei criteri fissati dal comitato, si porta in contrattazione. I criteri sono indiscutibili, questo è vero, ma bisogna contrattare la ripartizione. Dopodiché il dirigente a sto punto ha il compito finale di assegnazione alle persone. Scusa, molte volte la ripartizione si utilizza gli stessi criteri. Allora non sono criteri. Scusate, se uno dei criteri è la qualità dell'insegnamento, non c'entra niente con la ripartizione. L'innovazione metodologica e didattica non c'entra niente con la ripartizione. Che poi ci siano stati degli obbrobri, tipo il numero di presenze o assenze nei collegi o alla scuola, ma quelle sono assurdità e quelle sono cose fuori dalla logica, cioè fuori da qualsiasi, voglio dire, no, idea di legittimità della cosa. Il problema è quello. Peppe, posso pregarti? Aspetta, fermati. Vabbè, conclude e poi facciamo il dibattito. Fatemi andare avanti. È caldo, l'argomento è molto impegnativo e sollecita le domande. Fammi dire che ho 6-7 diapositive. Allora, una dirigenza che sa utilizzare, secondo me ovviamente, la contrattazione integrativa e le relazioni sindacali in genere devono essere viste come supporto all'attività dirigenziale. Io rimango sempre attaccata all'idea di Della Ringa, perché serve, lo hanno fatto per quello, non per creare la guerra interna, ma se ne è accorto qualcuno. La partecipazione e il consenso attivano processi di miglioramento e di adesione alla missione istituzionale. Indipendentemente dagli istituti previsti dalla norma, il dirigente può utilizzare modelli partecipativi. Che vuol dire? Avete presente la previsione dell'intesa che ancora non c'è nel contratto? Ma boh, non c'è nel contratto, ma è vietato raggiungere accordi precontrattuali? Non è vietato, non sono sostitutivi del contratto, ma è una cosa diversa. Ma possono sempre esserci, in particolare appunto relativamente alle materie dell'informazione preventiva. L'importante è che, per di essere chiara con sta cosa, che l'atto dispositivo corrisponda all'esito dell'esercizio del potere, ve lo spiego. Allora, ci possono essere tutte le intese che si vogliono, però se è previsto che quella materia sia regolata da un atto del datore di lavoro, deve essere regolata da un atto del datore di lavoro. Come ci arriva? Poi è cura del dirigente, della sua testa. Mi spiego, l'organizzazione del lavoro è materia datoriale, bene, non è materia di contrattazione. Ma se io voglio fare un'intesa col personale sui miei principi organizzativi, la faccio e poi faccio un provvedimento datoriale acquisendo quello che abbiamo già condiviso. Non ci vuole molto. Non può essere sostitutivo. Cioè non possiamo sostituire un atto con l'altro, ma non nessuno vieta un accordo precontrattuale, come il contratto deve essere, le materie del contratto e deve disciplinare il contratto, non può essere altrimenti. Il ruolo di presidio dell'RSU. Secondo me l'RSU deve presidiare gli snodi delle decisioni come garanti del sistema decisionale in generale, sicuramente entro i limiti della legge e delle materie, però utilizzando tutti gli spazi negoziali concessi e attivando modelli di accordo, chiamatelo come volete, che sia formale, informale, rituale o irrituale, però è anche onere dell'altra parte chiedere di partecipare, non solo lasciare alla bontà del dirigente. Guardate che una richiesta formalizzata di partecipare impone a chi la riceve di spiegare il perché non l'accetta, e questo attiva una relazione di partecipazione democratica. La formalizzazione mette in luce le posizioni reciproche, e quindi è proprio da attivare un processo culturale diverso rispetto a questa materia. Quello che vorrei io, che sono fuori dalla scuola, quindi posso sognare qualsiasi cosa, che i dirigenti utilizzassero le loro prerogative attraverso un percorso partecipato della via datoriale, cioè delle proprie prerogative, e vorrei che le RSU rivendicassero e agissero i loro spazi tenendo presente la visione del ruolo della contrattazione integrativa, che non costituisce un fatto che nasce rivendicativo, come azione rivendicativa, ma lo diventa quando poggia sulle basi del rispetto dei doveri da parte di tutti i lavoratori. Cioè partire, ovviamente, come posso dire, con le carte in regola. Chiaro? Perché è il momento di fare queste cose ormai. Non è più la difesa ad oltranza solo per difendere. No, lo so, ma sta cosa, insomma, penso che ci siamo arrivate tutte, no? E poi ho finito con una frase bella che ho coniato io: la partecipazione non è una festa, è un impegno per tutti. È vero, è vero. Stamattina mi sono pensata. Grazie. Guarda che carina.